La caccia. Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Buongiorno, il programma prevede di parlare delle pene opzionali, delle allergie della memoria, nonché di frontalieri a rischio.